difficile, lo so. Però è meglio. Musica allo stato puro. Terribile e sicuro. Sarebbe bello essere nuvole, avere un mondo da inseguire. Fermarsi solo un attimo e se c'è noia scomparire. Il programma col cuore di un bambino è il cammino di Gigi D'Agostino. Resterà piccino il cammino di Gigi D'Agostino. Dai, non essere triste, no? Fischietta un po' come sai fare tu, dai, vai, vai. È il mio usignolo, è stato lasciato dall'usignola. Ed è un po' giù, però vedi, appena... Ecco, hai visto? La forza della musica. Cosa ti riesce a fare? Come ti riesce a stravolgere i colori intorno? Oggi è mercoledì 31 maggio. È una puntata particolare perché comincia diversamente, con un'emozione diversa. È un'emozione più è un'emozione movimento. Ti devi lasciar prendere dal passo e imboccare quel sentiero che ti indica il ritmo. Il ritmo, non riesco a dire il ritmo. Musica è il ritmo che ti indica la strada. Tu cominci a marciare a tempo. Trova il passo. Trova il passo. Trova il passo. Giorno, ore 18. Frequenza, benevolenza. M2O. Ogni giorno, alle 18. Il cammino di Gigi D'Agostino. Ojo già. Sta per prendere vita l'operazione Viaggione. Chi non partecipa è quello lì. Potete trovare le varie informazioni, per ora ancora under construction, sul forum del mio sito www.gigidag.com. Frequenza benevolenza M2O. Forza, sulle mani un attimino. Tutti su, dai. Lasciate andare. Smettete un attimo. Marciate un po'. Non giochiamo su queste cose. Quando cioè ascoltiamo e marciamo. Dai. Non stiamo scherzando. Seriamente. Oggi già. Si chiama Il Cammino. Un motivo c'è. Se si chiama Il Cammino, un motivo c'è. Narafecca, sì, è una roba brutta, però non sono riuscito a far nulla. Lui insiste, dice che non è offensivo e continua imperterrito. Possiamo dire? Questo si intitola Passo Felino. Sì, inizialmente si chiamava Il Passo Felino di Gigi D'Agostino. Poi era troppo lungo e quando cominciavo a dire il titolo non mi ricordavo più com'era la fine. Cioè nel senso che era è troppo lungo, l'ho accorciato. Sì, non mi distrarre, sto mixando. Se non vi piacciono i mixaggi, potete scrivere alla mia mail o al mio numero di SMS e dire tutto quello che pensate. Le vostre critiche devono essere pulite e sincere. Oh, per chi volesse venirmi a trovare. Pronto, prova, si sente bene? Si sente? Benissimo. Se qualcuno di voi volesse venire, volesse, giusto? È corretto. Venire a trovarmi questo fine settimana in discoteca. Io suonerò sabato notte dalle ore 23, perché noi cominciamo sempre presto. È una storia che stiamo portando avanti da molti anni e quindi e sottolineo sempre l'orario, quindi dalle ore 23 alla discoteca Casa Rossa, via della Principessa 2 a Piombino, in provincia di Livorno, e ci troviamo lì sabato notte, eh? Sul giornale che parla della nuova età, non riesco più a parlare, mi sto rincoglionendo tutto proprio, della nuova età, no aspetta, com'è che c'è scritto qua? Ah sì, 40 anni, la nuova età da marito, non ho capito, forse vogliono, ah sì, che adesso ci si sposa dopo, cioè una volta prima, le mie spiegazioni storiche, sì no, tipo per esempio, allora qua sì no, ma poi adesso dai. Le seconde nozze. Per molti il matrimonio è proprio un'esigenza irrinunciabile. Così tra il 1990 e il 2000 le nozze bis, non so come cacchio sono aumentate del 50% in tutto il paese. E spesso, ho capito, a fare i testimoni ci sono gli ex. E allora sì che sono i bis, cioè quelli che si sposano due volte. E sì, che nel senso che sono aumentate del 50%, quindi vuol dire che ci sono un sacco, ma non solo divorzi, ma vabbè. E spesso a fare i testimoni ci sono gli ex. Bella questa cosa qua, perché si rimane in buoni rapporti, perché viceversa uno non è che, capito? Quali sono le coppie che funzionano meglio? C'è scritto qua, non è che lo dico io, perché io la penso un po' diversamente. Comunque, insomma, quali sono le coppie che funzionano meglio? Qual è, insomma, la fascia d'età con maggiori percentuali di riuscita? Proprio quella tra i 40 e i 50. Era una domanda, io leggo malissimo, si è capito? Quella era una domanda. Comunque, insomma, qual è, insomma, la fascia d'età con maggiori percentuali di riuscita? E qua dice, proprio quella tra i 40 e i 50 anni, perché sia gli uomini che le donne, pur non rinunciando al tipo ideale, cercano di scoprire chi hanno davanti, anche se magari è un po' diverso dai sogni. Così l'incontro è possibile. Cioè, tipo che lui dice, vabbè, oramai sei l'unica che me la dà ancora e quindi... scelgo te. È un po' è brutta, un po' così. Io non sono volgare, cioè ogni tanto cerco di, come dire, ricalcare con certi toni alcuni punti, alcune. Ma che cacchio sto dicendo? Ah. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Gigi sono io, il cammino è questo qua. Sarebbe un programma radiofonico, ma non mi piace chiamarlo così perché non ha nulla di programmato, quindi non può essere un programma, e se non è programmato, cacchio, il programma è. Insomma, sarebbe un programma radiofonico, ma non lo è, e quindi si chiama appunto Il Cammino di Gigi D'Agostino, che è una roba che potete. È una roba che potete percepire e sentire soltanto se passeggiate insieme a me. È troppo, ho chiesto troppo così. La signora Moratti è stata eletta sindaco di Milano. Sento questi ritmi qua, non capisco più niente, me ne vado proprio. Ciao ciao. Faccia di chi ci vuole male. Ma è sempre l'articolo sul matrimonio. Sì, ci sono scritte una serie di tristezze, tipo cresce la voglia di nozze per paura della solitudine. Cioè, ma che schifo. Vorrei fare una canzone da suonare con la chitarra per le strade e le persone. Vorrei fare una canzone per donare a tutto il mondo un poco di immaginazione. Vorrei fare una canzone che trasmetta un ideale se le cose vanno male. Vorrei fare una canzone anche solo per cantare, anche solo per cantare. Vorrei fare una canzone da suonare con la chitarra

Avete mai sentito parlare di quel presentatore che comincia le frasi e poi... di Gigi D'Agostino. Vi faccio ascoltare la musica che immagino e i viaggi che sogno. E i viaggi che sogno. E i viaggi che sogno. We'll be right back.